البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. Buongiorno Palestina. Ogni mercoledì alle 17.30 su Radio Wombat. Il 4 febbraio Vittorio Arrigoni avrebbe compiuto 46 anni. Vogliamo dedicare a lui la trasmissione di oggi, mandando in onda le registrazioni di Vittorio che sono presenti sul podcast di Samuele Sciarrillo con il titolo Le ali di Vic, un audio racconto in 6 episodi che ricorda con suoni e voci il giovane attivista a 10 anni dalla sua uccisione. Prima una breve intervista a Egidia Beretta, la madre di Vittorio. Tutto questo dopo la consueta selezione stampa della settimana e un breve intervallo musicale. Notiziario settimanale dalla Palestina del 7 febbraio, a cura di parallelopalestina.it. Notizia della settimana. La Corte Penale Internazionale ieri ha finalmente confermato la sua giurisdizione sulla Palestina, essendo la Palestina uno Stato membro della Corte. Di conseguenza, ora, le indagini che riguardano Israele e anche la Palestina saranno ufficialmente aperte. È una vittoria enorme e un primo passo per ottenere giustizia per le vittime palestinesi. Anche se il cammino sarà pieno di ostacoli, vale la pena di gioire oggi e mantenere alta la speranza. È una notizia molto importante che deve essere spiegata nel suo contesto. Mercoledì si svolgerà un webinar cui parteciperà Chantal Meloni, che alla Corte Penale Internazionale lavora come rappresentante delle vittime di Gaza. Dall'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Perché Israele è una colonia di insediamento? Perché l'esercito israeliano ha deciso di svolgere esercitazioni militari in determinati villaggi palestinesi proprio ora, dopo 7 anni? Da Assopace Palestina. Appello di accademici britannici e internazionali a rifiutare la definizione operativa di antisemitismo proposta dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Deputati britannici in supporto del difensore dei diritti umani Issa Amno. Cresce la pressione sul Dipartimento di Stato USA. Se Navalny merita supporto, perché non Issa Amno? Anan Asrawi, leader storica dell'OLP, non si candida alle elezioni palestinesi, ma continua nel suo impegno politico. Il simbolico dono di 5.000 vaccini da parte di Israele non ci aiuterà, dice l'autorità palestinese. L'assurdità di chiedere che Gaza si procuri per conto suo il vaccino anti-Covid. Da bocche scucite. Gaza, il blocco israeliano affama la striscia. Aumentano le demolizioni di case, pagano i bambini. Una vita in isolamento, 3 rapporti e descrizioni geografiche sulle condizioni di vita in Palestina. Israele distrugge e sequestra strutture abitative a Kirbet Unza, lasciando oltre 30 minori palestinesi senza tetto. Con un ordine arbitrario, Israele ha separato una famiglia palestinese. Soldati israeliani sparano, feriscono un adolescente palestinese vicino a Ramallah. Lo Stato riempie l'alta corte israeliana di falsità sui palestinesi in Cisgiordania. Come si dice Ku Klux Klan in ebraico? Se Israele chiama, io vado, ma basta con la manipolazione della Shoah. Matteo Renzi e il fallimento della sua politica estera in Medio Oriente. Biden in Medio Oriente, piano con gli entusiasmi. Biden ordina alla portaerei US-Nimitz di rientrare, un possibile segnale all'Iran. Biden non firmerà assegni in bianco ai sauditi e a Israele. L'era Trump è archiviata. revoca esportazione bombe in Arabia Saudita. Il ricorso di RVM Italia ha motivazioni inconsistenti. La resistenza cattura due droni israeliani nel sud del Libano e nella striscia di Gaza. Da Infopal, OCHA dati su demolizioni e sfollamenti in Cisgiordania. Forze di occupazione demoliscono tende e sfollano famiglie nella valle del Giordano. Forze israeliane demoliscono casa palestinese e rete elettrica in Cisgiordania. Forze di occupazione rimuovono 40 bancarelle al mercato nel nord di Jenin. Pulizia etnica a Gerusalemme, nativo palestinese costretto a demolire la propria abitazione. Decine di coloni invadono Al-Aqsa, sotto scorta della polizia. I coloni continuano a invadere la moschea di Al-Aqsa, nonostante il lockdown. Colono israeliano filmato mentre attacca una chiesa a Gerusalemme. Le forze di occupazione attaccano agricoltori e pescatori gazawi. Il clima invernale porta nuovi disastri a Gaza. Gaza aprirà i mercati locali dopo una chiusura di 5 mesi. Hamas, l'ANP, deve porre fine alle sanzioni su Gaza. Le famiglie delle vittime di Israele a Gaza dichiarano lo sciopero della fame. Il governo proroga di 2 settimane il lockdown in Palestina e raccomanda l'estensione dello stato di emergenza. Ministero della Salute, il cancro è la seconda causa di morte in Palestina. Il prigioniero Khaled Gaidan in gravi condizioni di salute. Da Invicta Palestina, è giusto essere antisionisti. Isamno si è opposto allo Stato coloniale di Israele e sta per pagare un prezzo pesante. Israele ha distrutto tonnellate di fragole provenienti da Gaza, Duvare, la più antica fabbrica di piastrelle della Palestina. Nella sua guerra contro gli studenti palestinesi, Israele considera le fiere del libro e la vendita di falafel un crimine. Iyad Alastal, raccontare Gaza per resistere. La storia del primo caffè palestinese di Haifa dopo la Nakba. Da Nena News, Bibi vola alto nei sondaggi, ma dopo il voto non avrà una maggioranza. Bibi diventa Abu Yair, ma il sangue scorre ancora nelle città arabe. 100.000 morti dopo, l'Italia applica la legge. Basta armi ai sauditi. Da Società Civile per la Palestina, le potenzialità dell'azione legale. Webinar, mercoledì 10 febbraio, ore 18, con Chantal Meloni ed Emily Schaefer Omerman. Da Samidun, Palestine Action ed Extinction Rebellion hanno fatto chiudere la fabbrica di armi israeliana nel Regno Unito. Da Zeitun, il blocco israeliano infiamma la crisi del Covid a Gaza. Perché i torturatori dello Shin Bet non devono avere paura di essere puniti? I boicottaggi sono strumenti legittimi di protesta contro l'ingiustizia. I funzionari di Biden si impegnano a combattere il BDS. Gli studenti del Fordham di New York contestano il divieto di istituire un club palestinese. Da Infopal, secondo l'OMS, gli attacchi israeliani alla salute dei palestinesi nei territori occupati persistono durante il Covid. Secondo il segretario generale ONU, le attività di colonizzazione israeliana sono un grande ostacolo al raggiungimento della pace. Il segretario generale dell'ONU afferma che i prossimi sondaggi palestinesi saranno cruciali. Avete ascoltato notiziario settimanale dalla Palestina del 7 febbraio a cura di parallelopalestina.it. Buona settimana a tutti. Lead up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they know the light. To carry the taste and the flames, ravaging fire and flames, and nothing remains. As the voice rising up in the smoky haze, we will not go down in the night. We die to fight. You can run off the most in our homes, in our schools, but the spirit will never die. Sono Marisa. Voglio innanzitutto ringraziare Egidia Berezza che ancora una volta, la prima fu ad aprile dell'anno scorso, si è resa disponibile per una trasmissione di Buongiorno Palestina. Oggi vogliamo dedicare questa trasmissione, come già stato detto nell'introduzione, a suo figlio Vittorio, morto a Gaza il 15 aprile 2011. Egidia, innanzitutto, com'è nata l'idea del podcast con le registrazioni di Vittorio? È nata da questo giovane uomo, Samuele Ciarrillo, che già ha realizzato dei podcast, quindi che sono dei racconti. E a metà di ottobre mi aveva, dopo essersi presentato, mi aveva detto che gli sarebbe piaciuto realizzarne uno su Vittorio, che lui non ha conosciuto personalmente, che ha seguito molto. Lui stesso ha fatto un'esperienza negli anni passati in Palestina, in Cisgiordania, e quindi abbiamo accettato e ci siamo incontrati, abbiamo registrato tutto un pomeriggio di registrazioni e poi lui ha lavorato sul progetto che è uscito è stato messo in rete il 12 gennaio di quest'anno. Sostanzialmente si parla di Vittorio, si parla di me, e è diviso in 6 episodi. Nel primo in particolare, che si intitola Le radici e il primo viaggio, racconto un po' anche la mia vita e i primi anni di Vittorio. Poi ci sono altri 5 episodi che ripercorrono passo passo tutta l'esperienza sua. C'è la mia voce, c'è la voce di Vittorio, ci sono testimonianze di altre persone, fra queste Michele Giorgio, che oltre a essere il corrispondente del Manifesto a Gerusalemme è diventato anche amico di Vittorio, alcuni suoi amici, Maria Elena Delia, ed è uscito un documento che secondo me è anche importante, perché è un po' anche un lascito mio per chi volesse ascoltarlo. So che ha già avuto molti, molti ascoltatori. Mi ha parlato anche il Corriere della Sera la scorsa settimana, quando, proponendo i 3 podcast settimanali, ha citato proprio anche questo, che si intitola Le ali di Vit, e si può ascoltare su diverse piattaforme, ad esempio Spotify, è quella che ricordo meglio. Uh-huh. Senti, in che modo hai proseguito il lavoro di Vittorio e cosa ti ha spinto a farlo? Beh, l'ho proseguito in modo molto indegno rispetto a lui. Certo, l'ho proseguito raccontandolo, perché ho avuto sempre molte richieste, sin dall'anno in cui Vittorio è stato ucciso, nel 2011, e quindi mi sono guardata dentro, anche se inizialmente ero titubante, perché è sempre un po' una sofferenza, però mi sono detta che Vittorio lo avrebbe voluto che io lo raccontassi, e così, parlando di lui, parlo anche della Palestina, che è la sua terra amata. E quindi vado. Da febbraio dello scorso anno purtroppo sono rimasta a Bulciago, perché incontri già programmati sono stati tutti, io spero soltanto rinviati, non so poi quando si riprenderà. Però gli incontri che faccio, sia con associazioni, nelle biblioteche, moltissimi incontri anche nelle scuole, mi danno la sensazione che in questo modo Vittorio continui a restare vivo, perché racconto la sua vita, le sue emozioni, i suoi ideali soprattutto. Vittorio diceva: voglio essere ricordato per i miei sogni, e io di questo parlo, dei sogni di Vittorio, della sua utopia. E senti, riprendendo appunto le tue parole, in cui prima hai detto che la Palestina è una terra che Vittorio ha amato fin dall'inizio, ecco, ti volevo chiedere, com'è nato in lui un interesse così intenso che lo ha avvicinato a una terra così purtroppo piena di conflitti? Vittorio scriveva che la Palestina mi ha chiamato, e io ci sono andato quando mi sono sentito pronto per lei. È iniziato tutto nel 2002, quando Vittorio aveva 27 anni, con questo primo viaggio in Gerusalemme Est, che pareva all'inizio un viaggio come gli altri, un viaggio di conoscenza, un viaggio di aiuto, portando solidarietà a un progetto, e si è trasformato poi invece nella passione bruciante di Vittorio, perché attraversando il confine che lo ha portato in Cisgiordania ha visto le macerie. Jenin era stata bombardata in quell'anno, ha visto le difficoltà delle persone, le case abbattute, le case distrutte, e ha conosciuto i palestinesi, cioè questi uomini e queste donne così martoriati, ma così con una grandissima voglia interiore di resistere, di andare avanti, di cercare la pace, di cercare la giustizia. E Vittorio, che ha sempre sostenuto che per lui i diritti umani sono imprescindibili dall'esistere, non poteva che trovare in queste stesse persone i suoi stessi ideali, e quindi non li ha più abbandonati. Certo. Senti, e infine Egidia, nel tuo libro Restiamo Umani, che era appunto, diciamo, il motto, no? Di Vittorio, c'è un'introduzione scritta proprio da te, in cui scrivi: Vittorio non è un eroe, non è un martire. Allora ti chiedo, chi è Vittorio Arrigoni? Ecco, voglio dire innanzitutto che io quelle parole le pronunciai proprio al funerale di Vittorio, davanti a centinaia e centinaia di persone, a tantissimi giovani. E Vittorio è stato un ragazzo che cosa aveva di diverso dagli altri? Probabilmente questa grande propensione alla ricerca della giustizia, della pace, ma cercando soprattutto nel suo interiore. Anche i primi viaggi che ha compiuto erano viaggi fatti anche per cercare di scoprire il perché lui era su questa terra, il perché era venuto al mondo e cosa poteva rendere a questo mondo che lo aveva accolto. Quindi all'inizio la vita di Vittorio è stata una vita come quella di tanti altri ragazzi adolescenti. Non ha mai abbandonato però queste tensioni interiori che lo spingevano sempre alla ricerca. E quindi può essere anche, non dico un esempio perché mi sembra una parola che non mi piace, però un buon compagno di vita, Vittorio, per coloro che come lui tendono a questi ideali. Ed è questo un po' anche quello che io racconto quando cammino insieme a lui. Io li chiamo sempre i miei viaggi con e per Vittorio. Che belle parole, Egidia, commoventi. Grazie, grazie veramente anche di questa tua disponibilità di oggi. E ti ringraziamo anche per tutto ciò che fai e continuerai a fare, ne sono sicura. Bene. Sono io che vi ringrazio tantissimo. Grazie, grazie mille. Je pense à vous souvent, je continue quand même d'aimer les bas tout blanc que le désir entraîne. Je manque de vous souvent, mais je m'en vais quand même laisser voler le vent qui souffle sur la peine. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. Seul, depuis que je vous ai perdu, je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Le ali di Vic, la storia di Vittorio Arrigoni, è un podcast ideato, scritto e prodotto da Samuele Sciarrillo, in collaborazione con Egidia Beretta Arrigoni. Episodio 4. L'utopia a Gaza. è appena arrivato un avviso per telefono che l'aviazione israeliana sta per bombardare l'edificio, per cui c'è un'evacuazione generale di tutti i giornalisti. Cioè, dove è lei adesso? Esattamente, tutti i giornalisti stanno lasciando il palazzo perché è arrivato un avviso tramite una telefonata dall'esercito israeliano che il palazzo verrà bombardato. Tiziano Terzani scrisse che la storia esiste solo se qualcuno la racconta. In questa registrazione, risalente al 12 gennaio 2009, Vittorio si trova a Gaza, sotto i bombardamenti dell'esercito israeliano. È l'unico cronista internazionale sul campo dall'inizio dell'operazione Piombo Fuso e sebbene lui non si consideri né un giornalista né un reporter, decide comunque di fare da tramite con diversi media internazionali per fare proprio questo, raccontare ciò che vede e ciò che sta vivendo. Perché la storia esiste solo se qualcuno la racconta. Arrigoni, è lei che ha una certa abitudine a questo. Di solito l'esercito quanto prima telefona? Siamo un po' preoccupati. 2 o 3 minuti. Allora, Arrigoni, vada veloce! Vada via anche lei, molto rapidamente. Ma come ci arriva Vittorio a Gaza? Dopo essere entrato nella blacklist degli indesiderati per lo Stato di Israele. E quindi gli è precluso di fatto anche l'ingresso nei territori palestinesi. Come fa ad essere lì, proprio lui, che nel Natale del 2005 viene fermato all'aeroporto internazionale di Ben Gurion, viene arrestato, processato e successivamente rimpatriato. Il cammino che porta Vittorio Arrigoni a rimettere piede in Palestina ha quasi dell'incredibile e contribuisce di fatto a scrivere un evento unico ed emblematico che rimarrà per sempre nella storia di questa terra travagliata. Ma facciamo un passo indietro. Siamo agli inizi del 2006 ed ora Vittorio si trova a casa sua, a Bulciago, a leccarsi le ferite dopo l'arresto e l'umiliazione appena subita a Tel Aviv. Sta cercando di ricomporre i pezzi della sua anima, di rialzarsi e ricominciare. Nel 2005 Vittorio era stato incarcerato da Israele nel dicembre del 2005 e avevo seguito sempre per i giornali con cui collaboravo questo fatto. C'era un cittadino di Bulciago che aveva avuto questa, diciamo, disavventura e ai giornali locali interessava quello, però a me ovviamente interessava molto altro, interessava quello che lui stava facendo. Marco Besana, alla fine del 2005, lavora come giornalista per 2 testate locali, la Gazzetta di Lecco e Mirate Online. Segue e racconta le vicissitudini di un cittadino brianzolo, di 30 anni, Vittorio Arrigoni, impegnato come attivista per i diritti umani in giro per il mondo e salito alle cronache dopo il suo arresto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. La cosa che mi aveva sorpreso è che poi, quando Vittorio era tornato, era stato lui a cercarmi. Perché aveva letto questi articoli, mi aveva sorpreso perché insomma aveva, immagino, molte altre interviste da rilasciare e invece mi aveva chiamato e quindi ci eravamo incontrati in questo bar di Barzago e mi ricordo che era stato un incontro incredibile perché io ero partito proprio volendogli fare un'intervista, quindi con il block notice. E invece poi era finita proprio come una chiacchierata, era quasi impossibile stargli dietro perché Vittorio era un fiume di parole. Quella sera Marco e Vittorio parlano di tutto, a partire dal suo arresto, anche se da una prospettiva che Marco non si aspetta. Più che di se stesso voleva che raccontassimo della Palestina. Come dire, a me è successo questo perché voglio parlare di Palestina. Il problema quindi è proprio lo spegnere queste voci. Poi sì, ci aveva raccontato di questo arresto, mi ricordo ancora i tagli, comunque i segni visibili. Mi ricordo questi fiumi di birra che Vittorio reggeva benissimo, invece io meno. Però è stato un incontro quello che mi ha cambiato la vita perché lì avevo detto a Vittorio che mi sarebbe piaciuto impegnarmi e fare qualcosa, insomma seguire un po' la sua traccia e da quel momento insomma Vittorio mi aveva dato dei consigli, mi aveva detto insomma scegli la tua battaglia, che poi non deve essere una battaglia gigantesca. Vittorio diceva sempre che la Palestina può essere anche fuori dalla porta di casa. l'importante era far sentire la propria voce. Marco, poco dopo quell'incontro, apre un blog, proprio sull'esempio di Guerriglia Radio, un blog che tratta di diritti umani nel mondo e ovviamente anche in Palestina. Lo chiama No Mas. L'interesse di Marco per i diritti umani in realtà si fa strada già da qualche anno, ed è uno dei motivi per cui, ancor prima di Vittorio, proprio in relazione al suo lavoro di giornalista, era già entrato in contatto con sua madre Egidia, che nel frattempo, nel 2004, era diventata sindaco del comune di Bulciago. Egidia mi ha colpito dall'inizio, perché era, secondo me, un sindaco, intanto uno dei migliori di quel periodo, insomma, di quando seguivo quei comuni, ma soprattutto era un sindaco che era diverso perché portava sempre qualcosa in più, cioè non si limitava ad amministrare, ma parlava di difesa dell'ambiente, di pace, di diritti umani. Quindi mi ricordo che Bulciago era diventato un paese molto più attivo di altri del circondario, perché aveva questa apertura al mondo che invece in altri comuni, seppur ben amministrati, ma non vedevo. Quindi io, che ero interessato ai diritti umani, non vedevo l'ora di andare da Egidia per parlare non tanto e non solo del comune, ma soprattutto di diritti umani, di Vittorio, di Palestina. E quindi si era creato questo legame, posso dire. Vittorio, sebbene molto impegnato nelle sue missioni di volontariato, segue con interesse l'impegno di sua madre come sindaco. Quando preparai il programma lo feci leggere a Vittorio e insieme decidemmo che non poteva mancare un accenno ai nostri ideali, la pace e la giustizia. E allora scrissi queste parole: non posso concludere senza parlare della pace e della giustizia, che lei è madre e sorella. Faremo anche noi la nostra piccola parte come comune per far cessare le ingiustizie e creare dialogo e progetti con il resto del mondo tormentato. Queste parole le ho condivise con mio figlio e lui fu molto... c'era quell'anno, quindi votò anche lui per me. Agli inizi del 2006 lo stato d'animo di Vittorio non è dei migliori, soprattutto per l'impossibilità di raggiungere il popolo con cui negli ultimi anni si è tanto legato. Tuttavia il suo impegno come attivista per i diritti umani non si interrompe e nell'estate di quell'anno parte per un nuovo viaggio. Parte ancora questa bellissima occasione di partecipare in Congo alle prime elezioni democratiche che ci sono dopo 40 anni come osservatori internazionali dell'ONU attraverso questa associazione di Padova, Beati Costruttori di Pace. Vittorio viene accettato, fa un training di preparazione, parte e incontra anche qui un mondo ancora diverso dall'altra Africa che aveva già conosciuto, perché qui vede la sete di partecipazione, la sete di democrazia di questo popolo che per 40 anni non aveva potuto dire nulla. E che speranza cam, risperato non mora. Canta Palestina. صباح فلسطين طل وفل ووجه حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد الطفل ونبقى نغني. Thank you. son fuse ciule stasera, come son fuse ciule stasera, come son fuse ciule. Io sono la luna a mesconeculo, o sono la luna a mesconeculo, o sono la luna. Le ali di Vic, la storia di Vittorio Arrigoni, è un podcast ideato, scritto e prodotto da Samuele Sciarrillo, in collaborazione con Egidia Beretta Arrigoni. Episodio 5. Piombo fuso. Questo episodio potrebbe urtare la sensibilità di chi ascolta. Cosa hanno fatto? I soldati israeliani sono saliti anche loro sul tetto. 5 soldati, pistole puntate alla testa, cercando di convincermi ad andare con loro. E io ripetevo, no, assolutamente, siamo in Palestina, non siamo in Israele, non vengo con voi. Mentre racconta del suo arresto, Vittorio si trova già a Gaza, è in piedi sul tetto di un peschereccio palestinese, indossa il suo inconfondibile berretto, una canottiera nera e ha la kefia legata in vita. Sta descrivendo le fasi della sua cattura da parte dell'esercito israeliano, avvenuta qualche mese prima, in acque palestinesi, mentre era a pesca con amici pescatori di Gaza, a qualche miglia dalle coste di Rafah. La cosa che mi ha stupito in quel momento era che i soldati, io ero nudo, seminudo, non ero assolutamente aggressivo, i soldati, che erano corpi speciali, commandos israeliani, teste di cuoio, volti mascherati, erano terrorizzati, mentre mi puntavano addosso le pistole, devi venire con noi, vedevo nei loro occhi una sorta di terrore. Un terrore ingiustificato, dal momento che davanti ci sono solo dei civili disarmati, internazionali e palestinesi, impegnati sulla loro piccola imbarcazione a calare delle semplici reti da pesca. Per quanto possibile, il loro intento è quello di aiutare la popolazione civile di Gaza nell'approvvigionamento di cibo e beni di prima necessità, per far fronte alle difficoltà dettate dall'embargo e dall'assedio israeliano, che ormai da anni hanno messo in ginocchio la striscia. Il terrore che proveranno i civili palestinesi di Gaza tra la fine del 2008 e gli inizi del 2009, nei 22 giorni dell'operazione militare Piombo Fuso, non sarà purtroppo altrettanto ingiustificato. Quello che li attende sono 3 settimane di attacchi ininterrotti ed indiscriminati, verso abitazioni, edifici, scuole, verso uomini, donne e bambini innocenti, le cui vite vengono spazzate via a centinaia, senza soluzione di continuità. C'erano già dei sentori, mi chiama quella mattina, era un sabato anche quella mattina qui a casa, e mi dice che hanno iniziato a bombardare, cominciavano a sentire le bombe, però non pensavano che sarebbe durata a lungo, come le altre volte, 2 o 3 giorni, e invece inizia e cominciano a morire, a cadere, così come foglie proprio le persone civili. Nel dicembre del 2008 Israele ed Hamas arrivano da 6 mesi di tregua, a seguito dell'operazione militare Inverno Caldo da parte dell'esercito israeliano. Durante questi 6 mesi Israele ha tuttavia continuato a compiere azioni militari verso Gaza. Le azioni israeliane causano in quel periodo la morte di 49 palestinesi, tra cui diversi bambini, e nell'autunno dello stesso anno, durante il mese di novembre, vengono uccise altre 17 persone. In risposta a questo Hamas riprende il lancio di razzi e di colpi di mortaio verso Israele, tornando di fatto ai livelli di scontro precedenti la stipula della tregua. Israele decide quindi di rendere più frequenti le chiusure dei varchi, impedendo così anche l'arrivo di aiuti umanitari da parte di diverse ONG. Il 13 dicembre 2008 il governo di Israele annuncia che è disposto a prolungare la tregua, a patto che Hamas accetti le sue condizioni. Il giorno successivo rappresentanti al Cairo di Hamas propongono allora di tornare agli accordi originali, ovvero interrompere il lancio di razzi verso Israele con l'impegno di quest'ultimo di interrompere similmente le operazioni militari nella striscia, riaprire varchi di frontiera e rimuovere le limitazioni ai traffici commerciali. Tuttavia Israele pare aver già deciso di intervenire. Il 23 e il 24 dicembre le sue forze militari compiono alcuni raid nella striscia, causando la morte di altri miliziani e di alcuni civili palestinesi. Queste azioni causano in risposta un ulteriore aumento dei lanci di razzi e di colpi di mortaio da parte di Hamas. Israele il 27 dicembre 2008 alle 11.30 ora locale decide di dare inizio all'operazione Piombo Fuso, che secondo le autorità israeliane ha l'intento dichiarato di colpire duramente l'amministrazione di Hamas al fine di generare una situazione di migliore sicurezza intorno alla striscia di Gaza nel tempo. Vittorio in quei giorni si trova già a Gaza, come ricorda anche il corrispondente a Gerusalemme per il Manifesto, Michele Giorgio. E poi cosa accadde? Accadde in pratica che ci avvicinammo a Natale e, come accade spesso in quelle circostanze, molti giornalisti che sono residenti tra Gerusalemme e Gaza e territori palestinesi, per ragioni professionali ovviamente, colgono l'occasione delle feste per tornare a casa nei loro paesi. Io risiedo a Gerusalemme, quindi ero a Gerusalemme e avevo trascorso il Natale qui. E quando ci fu l'attacco israeliano, se non sbaglio il 27 di dicembre del 2008, in pratica a Gaza non c'erano giornalisti stranieri e Israele, il governo israeliano, decise di chiudere alla stampa la striscia di Gaza, per cui accadde che non c'era praticamente nessun reporter straniero a Gaza e io parlai subito con il giornale, anche io ovviamente non ebbi modo di andarci, parlai subito con il mio capo al Manifesto dicendo che c'era questo italiano che tra l'altro ci forniva delle informazioni importanti e il Manifesto subito instaurò questo rapporto con Vittorio, ci sentivamo ogni giorno, discutevamo un po' della situazione, di quello che accadeva. E inizia a scrivere, gli viene chiesto dal Manifesto, da Michele Giorgio, che era anche diventato suo amico, se se la sentiva di fare la cronaca, perché Israele aveva chiuso i confini alla stampa e alle televisioni. La prima volta che succedeva. Di solito anche gli eserciti si portano i loro embedded, i loro giornalisti. Questa volta nessuno doveva sapere, se non attraverso i comunicati ufficiali del DF. La prima cronaca di Vittorio sul Manifesto è del 27 dicembre 2008, dove riporta queste parole. Ci siamo svegliati sotto le bombe oggi a Gaza e molte sono cadute a poche centinaia di metri da casa mia e molti miei amici ci sono rimasti sotto. Siamo a 210 morti, ma il bilancio è destinato a crescere. Una strage senza precedenti. Hanno spianato il porto e raso al suolo le centrali di polizia. Mi riferiscono che i media occidentali hanno digerito, ripetono a memoria, i comunicati diramati dai militari israeliani, secondo i quali gli attacchi avrebbero colpito chirurgicamente solo le basi terroristiche di Hamas. In realtà, visitando l'ospedale di Al-Shifa, il principale di Gaza City, abbiamo visto dei corpi distesi nel cortile, alcuni in attesa di cure, la maggior parte degni di sepoltura, decine di civili. Avete presente Gaza? Ogni casa è arroccata sull'altra, ciascun edificio è posato sull'altro. Gaza è il posto al mondo a più alta densità abitativa. Per cui se bombardi a 10.000 metri di altezza, è inevitabile che tu faccia una strage di civili. Ne sei cosciente e colpevole. Non si tratta di errore, di danni collaterali. Così, bombardando la caserma di polizia di Al-Abbas, in pieno centro, è rimasta coinvolta nell'esplosione anche la scuola elementare lì a fianco. Era la fine delle lezioni e i bambini erano già in strada. Decine di grembiulini azzurri svolazzanti si sono macchiati di sangue. Da Israele giunge una minaccia terribile. Questo è solo il primo giorno di una campagna di bombardamenti che potrebbe protrarsi per 2 settimane. Faranno il deserto e lo chiameranno pace. Il silenzio del mondo civile è molto più assordante delle esplosioni che ricoprono la città, come un sudario di terrore e morte. Restiamo umani. E allora il cuore di Vittorio si angoscia. Cioè, i bambini che aveva fatto giocare, con cui aveva giocato, li deve andare a raccogliere a pezzi. E quindi sono giorni di distruzione, di morte, di dolore, di sofferenza, e Vittorio vive come se fosse proprio lui e la sua famiglia colpita. Israele ha dichiarato al mondo che i suoi attacchi erano operazioni chirurgiche atte a debellare dalla striscia di Gaza il terrorismo di Hamas. Noi che siamo stati testimoni oculari di cosa è stato il massacro, abbiamo visto che le uniche operazioni chirurgiche erano quelle negli ospedali palestinesi, in cui si amputavano gambe e braccia di feriti. Il giorno di Capodanno del 2009, Vittorio, sempre sul Manifesto, riporta la sua nuova testimonianza. Come pacifista e non violento, abborro qualsiasi attacco di palestinesi contro israeliani, ma qui siamo arcistufi di ascoltare la cantilena secondo la quale questa strage di civili sarebbe la risposta di Israele ai lanci dei modesti razzi palestinesi. Per inciso, dal 2002 a oggi, i Qassam hanno prodotto 18 morti in Israele, cui sabato, in una manciata di ore, di civili morti negli ospedali ne abbiamo contati più di 250. Ieri al campo profughi di Jabalia, caccia F-16 hanno lanciato missili contro un'ambulanza. Sono morti un medico, Jihab El Madoun, e il suo infermiere di fiducia, Mohamed Abouazira. È probabile che alla fine di questa terrificante offensiva qualcuno di noi andrà ad aumentare il conto dei morti, degli scomparsi. Non ci pensiamo, andiamo avanti, restiamo umani. Quando Israele inizia ad attaccare gli ospedali e le ambulanze, come attivisti dell'International Solidarity Movement, diciamo immediatamente una conferenza stampa per comunicare a Israele che da quel giorno noi internazionali saremmo saliti a bordo dalle ambulanze, sperando che la nostra presenza fungesse da deterrente ai crimini di guerra di cui Israele si è macchiato per i 22 giorni di massacro. Durante i bombardamenti ad un certo punto ci siamo resi conto, quando è stata bombardata la sede dell'ONU, che Israele si disinteressava della nostra presenza, e Netta Golam, che è un po' la nostra coordinatrice dell'ISM in Gerusalemme, ci ha ordinato, ricordo che ci aveva proprio ordinato di scendere dalle ambulanze perché alla fine se no saremmo rimasti uccisi, noi non ce la siamo sentita, non abbiamo fatto altro che riunire i paramedici e i medici palestinesi e chiedere a loro cosa volessero che noi facessimo. Allora ricordo che all'unisono dottori e paramedici ci dissero che con noi sulle ambulanze sparavano lo stesso, ma sparavano un po' di meno, per cui nonostante i rischi altissimi siamo rimasti con i nostri amici paramedici. بتأسف الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي يا صاحب العرق الغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد وتزوق طبقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارض تناديكم سمعن خدر المعادي هشت على الايادي بالايادي مساعد مع حم الموت قد مطابق بالصوت عبو رافض السكوت وصاحب علم الصوت ها اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف الضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادمع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى Prima di passare alla consueta rassegna musicale, vogliamo ricordare ancora la buona notizia. Dall'articolo di Michele Giorgio del 7 febbraio su Il Manifesto, ci sono voluti anni, troppi anni, ma ci siamo. La Corte Penale Internazionale dell'AIA ha mosso il passo tanto atteso. Ha dichiarato la propria giurisdizione sui territori palestinesi occupati, aprendo la strada alla procuratrice capo del tribunale, signora Fatou Bensouda, per aprire un'indagine sui crimini di guerra contro Israele. Crimini effettuati durante l'offensiva Margine Protettivo del 2014, che ha visto Israele bombardare intensamente per settimane Gaza, uccidendo circa 2.300 palestinesi, tra cui 551 bambini, ferendone altri 11.000 e provocando la distruzione completa o parziale di decine di migliaia di abitazioni, oltre ad infrastrutture civili. L'attenzione della Procura internazionale si concentrerà anche sul gruppo Hamas e sulle colonie costruite da Israele in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, e quindi sull'insediamento di popolazione israeliana nei territori palestinesi occupati nel 1967 contro la Convenzione di Ginevra. Per passare ora alla consueta rassegna musicale, ascolterete i brani completi di Renosa, We Will Not Go Down, Song for Gaza by Michael Hert. Michael Hert, noto per essere stato il batterista del gruppo musicale acid rock californiano, ha avviato una carriera solista all'insegna di una costante ricerca sonora sui ritmi e le percussioni etniche nel campo della world music. I suoi dischi sono summit multietnici in cui le culture di tutto il mondo ritrovano l'essenza umana che hanno in comune. Ascolterete poi Enzo Avitabile e la cantante Amal Mourkous in Canta Palestina. Amal è una giovane cantante palestinese la cui musica trae ispirazione dalla tradizione palestinese arabo-mediterranea. Il suo stile postmoderno esprime la lotta contro l'emarginazione e l'esclusione della cultura arabo-palestinese a causa dell'occupazione israeliana. A seguire Marc Lavoine, Cher Ami, live at Olympia nel 2003. Marc Lavoine, cantante francese, ha fondato nel 1997 il quotidiano Les Papotins, scritto da bambini autistici. In questa logica ha creato poi l'associazione Les Papotins per venire in loro aiuto e ha creato una fondazione che sostiene progetti locali di integrazione dei giovani attraverso l'occupazione. Per finire ascolterete Rebel as Che Guevara, ribellarsi come Che Guevara. È una canzone di Amal Mourkous con la lirica di Firas Drake. Canzone è originariamente composta e cantata dal compositore cubano Carlos Puebla nel 1995 con il titolo Hasta la Victoria Siempre e ha oltre 200 versioni di diversi artisti. Questa versione non è di Che Guevara, il testo è più adatto alla società palestinese e chiama tutte le donne, i bambini e le persone che lavorano duramente in tutto il mondo, coloro che vivono nell'ingiustizia, ad essere coraggiosi e a ribellarsi come il grande leader Che Guevara. È come un omaggio ai nostri compagni di lotta per l'uguaglianza e la giustizia in America Latina e nel mondo. La canzone è stata registrata dal vivo nella città di Kfar Yassif. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che ci sarà un presidio per la liberazione di Abdullah Öcalan, indetto dal Coordinamento Toscana per il Kurdistan, a cui parteciperanno anche attivisti dei movimenti palestinesi e sarawi. E anche curdi, curdi, sarawi quindi e palestinesi, uniti nella lotta contro l'oppressione e l'ingiustizia per la liberazione dei prigionieri politici. Il presidio si terrà sabato 13 alle ore 15:30 a Firenze, in Piazza del Duomo, dal lato della Via dell'Oriuolo. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora, inshallah. Lead of the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they know the light. To carry the taste and the flames, ravaging fire and flames, and nothing remains. As the first rising up in the smoky haze, we will not go down in the night. We die to fight. You can burn off our mosques and our homes and our schools, but and his spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Children alive, murdered and massacred like of tonight. Why the so-called leaders of countries afar debated on who's ruler? So powerless world war in vain, and the war filled out like acid rain. See him first taking in, see the life on his own in the smoky haze. He will not go down in the night without a fight. You can burn off the most in our homes, in our schools, but the spirit will never die. We will not go in Gaza tonight. We will not go down in the night without a fight. Ragazzi, facciamo, partiamo un pochino, facciamo se li amano. Siamo? No, no, no. The second saxophone. Yes. The second part of you to make a saxophone. Come suave destino a Bethlehem, come suave destino a Bethlehem, come suave destino. E come songa fumigata stiffenest, come songa fumigata stiffenest, yous. E canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, e canta, canta, canta, canta, Palestina, canta, canta, speranza. E che speranza che risperato non muore. Canta Palestina. صباح فلسطين طل وفل وغشو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد طفل ونبقى نغني. Come son fusi e giù stasera, come son fuse giù stasera, come son fuse giù. Tu venni, io sono la luna a mescane con lui, o sono la luna a mescane con lui, o sono la luna. E canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, Risperatelo l'umore, canta Palestina, canta per Vittorio. Canta Palestina, canta per Vittorio, canta Enzo. ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويفرح طفل ونبقى نغني سوا نغني للحياة نغني للحرية نضيء سوية درب الحياة. Cantiamo per Vittorio, canta le Vittorie, canta, canta, canta, no, canta le Vittorie, canta Palestina, no, canta le Salam, canta, canta, speranza, canta, canta, canta, e che speranza canta, canta le Horri, risperato non muore, canta Palestina, canta le Filistini, canta Palestina, canta le Horri, canta, canta, canta, canta, canta Enzo. Vittorio, per Palestina, per me, per te, per noi, per nulla. نحبك, نحب Vittorio, نحب أن نغني للحياة. ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم وأفرح ونبقى على الأرض السلام. À vous souvent je continue quand même d'aimer les bateaux blancs que le désir entraîne je manque de vous souvent mais je m'en vais quand même laisser voler le vent qui souffle sur la peine. Ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. Seul depuis que je vous ai perdu, je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses. Souvent, je me souviens de tout. Je me réveille à temps et je vous vois partout. Je vous attends souvent. J'invente un rendez-vous. Vous n'avez plus le temps, plus une minute à vous.

Jump, jump, jump. Now,